Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12 e 13 minuti, nuovo appuntamento con Salva Danaio. Oggi la puntata è dedicata interamente al tema del sociale. Come saprete, spero lo sappiate, questa settimana Radio 24 sta dedicando gran parte della programmazione al sociale per capire anche come le ripercussioni della crisi si sono tradotte concretamente nella vita di molti italiani che ogni giorno devono affrontare condizioni molto delicate, anziani, malati, disabili. Oggi a Salva Danaio dedichiamo la puntata alla pensione per gli invalidi civili dopo una recente marcia indietro dell'INPS che ha ritirato una circolare molto criticata, questo per quel che riguarda la pensione degli invalidi al 100%, e poi entreremo meglio nel dettaglio. Prima però voglio salutare i nostri ospiti, gli ospiti che ci aiuteranno oggi a capire meglio la problematica, a fare un po' il punto su questa circolare, ma anche il punto sulle procedure necessarie. E allora saluto subito Stefano Caredda, giornalista di Redattore Sociale. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Saluto Angela Maria Caracciolo, responsabile settore previdenza patronato INAS CISL Nazionale. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. E saluto Dolores Forlano, coordinatrice del call center di superabile.it. In questo momento però abbiamo un problema con la linea, quindi torneremo a collegarci con lei tra pochissimo. Questi sono gli ospiti che appunto oggi ci accompagneranno in questa puntata. Vi ricordo i numeri attraverso i quali potete contattarci: 800 24 0024 per intervenire in diretta e raccontarci le vostre esperienze, nonché i vostri dubbi, i vostri quesiti; 349-238-6666 per i vostri sms. Prima però andiamo a vedere che cosa succede sui mercati. Se avete seguito anche il nostro giornale radio, già saprete che oggi è il segno meno a dominare sui mercati del vecchio continente, anche se negli ultimi minuti le piazze stanno leggermente recuperando. E allora Parigi cede uno 0,11%, Francoforte lo 0,16%, stabile resta Londra con una flessione di 0,5%. La peggiore, ai noi, resta Milano, dove il FTSE MIB cede l'1,18%, il FTSE All Share all'1,08%. Per quel che riguarda i mercati asiatici, questa mattina chiusura molto pesante per Tokyo, il Nikkei ha chiuso con una flessione di 2,5 punti, questo in relazione intanto allo yen che si rafforza sul dollaro e poi anche per l'incidente avvenuto questa mattina in Giappone, quando un Boeing è stato costretto a un atterraggio d'emergenza. Questo ha fatto sì che sul listino principale a Tokyo alcune società fornitrici dei componenti del Dreamliner, che è questo avveniristico aereo della Boeing, abbiano subito pesantissime flessioni. Invece non ha ripercussioni, almeno per il momento, e ci auguriamo almeno sui mercati che questo non avvenga, l'incidente di Londra. Londra è stabile, il FTSE è stabile a meno 0,5% circa fin dall'apertura. Come saprete, come avrete sentito, è precipitato un elicottero nel centro della città. Per il momento il bilancio è di 2 morti. Che cosa sta influendo sui listini del vecchio continente? Certamente quanto ha fatto sapere la Banca Mondiale questa mattina, cioè che il 2013 è un anno rischioso, la crescita mondiale è stata rivista, quindi ci sono stati dei tagli per quel che riguarda le previsioni di crescita, un 2,4% per la crescita globale dal 3% previsto. Per quel che riguarda gli Stati Uniti, la crescita sarà all'1,9%, ma anche qui bisognerà vedere poi se entreranno in vigore tagli o meno. Per quel che riguarda il fisco, l'eurozona invece negativa, meno 0,1%. I paesi emergenti continuano a crescere, ma al tasso più lento degli ultimi 10 anni. E poi influisce anche l'inflazione dell'eurozona, che è stabile: a dicembre più 2,2%, nel 2012 più 2,5%, quindi comunque un'inflazione abbastanza sostenuta per una crescita che stenta davvero a farsi vedere. Sul listino principale a Piazza Affari, Tozza è il titolo migliore, più 1,6%, bene anche Ferragamo, più 1,5%, Buzzi Unicem invece è in evidenza anche in questo caso, più 1,55%. In difficoltà tutto il comparto bancario, il titolo peggiore è Mediobanca, meno 3,59%, ma giù anche Banco Popolare, Unicredit, UbiBanca, Intesa San Paolo. Tra i titoli che fanno peggio ritroviamo anche Mediaset, che c'è del 3,5%, Mediaset era andata male anche ieri, aveva perso un meno 3,3%, ma secondo gli analisti tutto questo è abbastanza normale perché i risultati raggiunti la settimana scorsa non erano supportati da, diciamo così, notizie di particolare fondamento, quindi queste prese di beneficio sul titolo sono più che comprensibili. Giù anche Fiat, meno 2,73%, questo è ovviamente conseguenza dei dati sulle immatricolazioni, i dati di questa mattina della CEA, le vendite a dicembre giù del 16%, nel 2012 meno 8,2%, particolarmente male Fiat che a dicembre ha fatto meno 17,8%, in tutto il 2012 ha avuto una flessione del 16%, ovviamente è ridotta, rivista anche la quota di mercato dal 7,1 al 6,5%. Euro su dollaro 1,3325, quindi continua a rafforzarsi la moneta unica. Questo è un pericolo secondo alcuni in Europa, non ultimo Jean-Claude Juncker, il quale ha detto appunto è questo rafforzamento piuttosto pericoloso. Velocemente sul listino, sul completo, da segnalare Meridiana, che corre in borsa, addirittura arrivata a guadagnare oltre il 21%, dopo le mosse della Gacan, che ha sostituito l'amministratore delegato Giuseppe Gentile con Roberto Scaramella, e ha annunciato ovviamente una ricapitalizzazione che darebbe ossigeno alla compagnia, una ricapitalizzazione che viene ipotizzata intorno ai 100 milioni di euro. Adesso noi invece torniamo al tema di oggi, vi ricordo ancora i numeri attraverso i quali potete contattarci: 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri SMS. Parliamo di invalidità, la nostra scheda. Gli invalidi civili, parziali e totali in Italia, che hanno diritto ad una pensione di inabilità, secondo i dati del sito dell'INPS, sono quasi 730.000. Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni e i relativi limiti reddituali previsti. Per l'anno 2013, agli invalidi civili al 100%, nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e uno stato di bisogno economico, viene riconosciuto un assegno di circa 275 euro per 13 mensilità. Per ottenerlo bisogna avere tra i 18 e i 65 anni, essere cittadino italiano dell'Unione Europea residente in Italia o cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, avere il riconoscimento di un'invalidità pari al 100% e disporre di un reddito annuo personale non superiore a 16.127 euro. Proprio sulla questione del reddito si è recentemente sviluppato un dibattito piuttosto acceso. Secondo alcune direttive pubblicate in una circolare dell'INPS alla fine del 2012, per avere diritto alla pensione dal 1 gennaio di quest'anno, gli invalidi al 100% non avrebbero più dovuto fare riferimento al reddito personale, ma a quello familiare, comprendendo quindi, in caso di persone sposate, anche quello del coniuge. Un provvedimento definito iniquo e vessatorio dai rappresentanti sindacali, che avrebbe visto il non accoglimento di buona parte delle domande. Il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha avviato un'istruttoria sulla circolare e, in attesa di una nota ministeriale che chiarisca la complessa materia, il provvedimento è stato quindi ritirato. Un sollievo per tante famiglie, anche se resta la preoccupazione. Non è la prima volta, infatti, che viene ipotizzata una restrizione dei requisiti necessari ad ottenere questo sostegno. E noi proprio da qui vogliamo partire e chiedo l'aiuto a questo punto del collega Stefano Caredda, perché non è stata questa la prima volta in cui si è tentato di modificare i requisiti. Vorrei fare un po' con te il quadro di questa circolare e anche di questo. Per il momento si tratta di una sospensione. Per il momento si tratta sì di una sospensione in attesa di una nota ministeriale che probabilmente si risolverà poi nell'attesa di un pronunciamento del Parlamento. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è orientato infatti a chiedere da questo punto di vista un pronunciamento autorevole da parte delle Camere, evidentemente quelle della nuova legislatura, certo, per avere una definizione chiara che ponga fine a una prassi amministrativa che effettivamente è stata altalenante nel corso degli ultimi anni. In verità il pronunciamento dell'INPS si basa su una sentenza della Corte di Cassazione del febbraio del 2011 che per la prima volta aveva rifiutato l'assegno di invalidità alla pensione a una cittadina, avanzando il ragionamento che cumulando il suo reddito con quello del coniuge sforava i limiti previsti. Prima di questa sentenza del 2011 la giurisprudenza trentennale, se non di più, sì, era assolutamente concorde nel garantire il fatto che si facesse riferimento esclusivamente al reddito personale. Peraltro faccio notare che nel momento in cui una soglia viene aumentata, o meglio, nel momento in cui si fa riferimento non solamente al reddito di una persona, sì, ma a quello di due persone, ragionevolezza vuole che la soglia, il numero, certo, venga aumentato. Capisco. 13.000 euro per una persona, per due persone, cioè con i coniugi, si potrebbero trasformare, non dico nel doppio, ma in 28, 29, 30.000 euro. Certo. In questo caso invece la soglia è rimasta la stessa, 16.000 euro, facendo poi mettendo in evidenza una situazione in cui l'invalido civile parziale, cioè con una invalidità inferiore al 100%, otteneva la pensione sotto i 16.000 euro facendo riferimento al suo reddito personale, e l'invalido civile totale facendo riferimento al suo più a quello del, certo, coniuge. È una evidente disparità e l'INPS non ha potuto non tenerne conto. Allora io intanto saluto Dolores Forlano, che lo ripeto è la coordinatrice del call center di superabile.it, ben trovata anche a lei. Buongiorno a tutti. E do subito però la parola a Maria Luisa da Latina, che saluto, buongiorno, benvenuta, ci dica. Buongiorno, comunque guardi, la risposta io l'ho già avuta perché ho sentito la vostra scheda, perché io compio quest'anno 67 anni. Sì. E mi è stato sospeso la pensione di invalidità. Sì. E ho sentito dalla scheda che dopo i 66 anni non si toglie, insomma. Allora, io giro subito la sua considerazione alla dottoressa Caracciolo per capire anche che cosa succede quando uno poi supera i 65 anni. No. Guardi, allora, se ho capito bene, sì, probabilmente la signora rientrerebbe in quelle situazioni nelle quali la pensione di invalidità, di inabilità viene trasformata in assegno sociale. Esatto, credo proprio di sì. E quindi credo che la sua situazione sia da ricollegare a questa trasformazione, per cui io le consiglierei di presentare domanda, di verificare e comunque eventualmente di adoperarsi per questa trasformazione, perché diversamente non... Certo, che comunque non è automatica. A meno che non ci siano situazioni reddituali modificate e per cui questa trasformazione non è avvenuta, bisognerebbe verificare attentamente la sua situazione, ma in generale i motivi possono essere questi. Allora, dottoressa Caracciolo, prima poi di interromperci per dare la linea al meteo, io volevo da lei una considerazione sull'iniquità di questa circolare dell'INPS, perché poi appunto si era fatta questa distinzione tra gli invalidi al 100% e invece gli invalidi parziali, ma se fosse valsa per tutti sarebbe stata iniqua lo stesso? Allora, per dovere di chiarezza, sì, devo velocemente dire una cosa, nel senso che questa era una cosa che stava nella, era una spada di Damocle che sì. Noi ci aspettavamo da più tempo, perché mi dispiace smentire il collega, comunque voglio arricchire l'informazione, il giornalista, ma non è soltanto l'ultima sentenza che ha determinato questa questo, diciamo, presa di posizione dall'INPS, questo cambiamento. Purtroppo ci sono una serie di sentenze sfavorevoli e quindi che affermavano la necessità di fare riferimento al reddito coniugale per accedere alla pensione di inabilità, che sono molte e che addirittura partono dal 2002. C'è stata qualche sentenza isolata di segno positivo, però diciamo che la magistratura si era attestata da tempo purtroppo su questa situazione, facendo leva anche su un'ambiguità della norma, su una serie di interpretazioni che nel tempo sì. Erano cambiate. Vabbè, questa non è una smentita, è appunto solo un arricchimento. Infatti mi sono corretta, non era smentire ma era arricchire, giusto per chiarire le sì. Cose, nel senso che noi anche come patronati, pur essendo molto felici di questa generosità dell'INPS che amministrativamente non aveva mai tenuto in considerazione sì. Il reddito coniugale, eravamo consapevoli che invece nelle situazioni in cui si doveva affrontare un giudizio bisognava tener conto del reddito coniugale, perché la magistratura ormai si era attestata su questa cosa. Detto ciò, la cosa non piacevole è stata la modalità con la quale l'INPS ha comunicato questa cosa, in realtà non l'ha comunicata chiaramente, perché anche noi che siamo abituati a seguire tutte le disposizioni, certo. I cambiamenti eccetera, l'abbiamo dovuta scoprire questa novità soltanto nelle tabelle allegate a questa famosa circolare, ma non c'è una comunicazione ufficiale che abbia rappresentato questo cambiamento di posizione. E sicuramente siamo d'accordo, ecco, per ritornare alla questione generale, sì. Siamo d'accordo col Ministro nel rivedere tutta la questione. Io le dico che prima dell'estate noi come patronati siamo stati convocati, ascoltati dalle commissioni igiene e lavoro del Senato, che appunto stavano facendo un'indagine proprio sull'andamento di tutta sì. Le procedure, la situazione, e una delle cose che abbiamo chiesto è stata proprio questa, cioè una rivisitazione completa sia dal punto di vista sanitario, più corretta, più adeguata, sia sì. Dal punto di vista reddituale, sì. Che possa garantire comunque adeguatezza a prestazioni di questo genere, che sicuramente sono riferite a persone che stanno in una situazione di disagio, e quindi abbiamo accolto con assoluto favore questa posizione del Ministro, e le organizzazioni sindacali ovviamente da tempo stanno lavorando anche perché si faccia una revisione di tutta la materia. Certo, però appunto una revisione globale, anche perché comunque bisogna tener conto anche delle condizioni economiche che vive il Paese, quindi anche su questo bisognerebbe fare delle riflessioni. Le 12:35 minuti, stiamo parlando di invalidità, del segno INPS, invalidità civile al 100%, e allora, prima di dare spazio ai nostri ascoltatori che ci hanno chiamato all'800240024, io volevo subito chiedere alla dottoressa Forlano, che è appunto coordinatrice del call center di superabile.it, se questa notizia di questa circolare INPS abbia avuto delle ripercussioni anche su tutti quelli che vi hanno chiamato, quindi se è emersa una preoccupazione evidente dalle telefonate che avete ricevuto. Sì, senz'altro. Naturalmente subito dopo questa notizia noi abbiamo avuto sicuramente un'impennata delle telefonate, perché la preoccupazione delle famiglie era veramente grande, quindi noi abbiamo poi il nostro call center, operatori specializzati. Sì. Il call center che grazie all'INAIL, sì. No, che ha avviato questa esperienza nel 2000, dà proprio questo grande sostegno, non solo psicologico ma anche pratico, e quindi consulenza, informazione su tutto quello che riguarda la disabilità, dagli assicurati, infortunati, INAIL, a tutte le altre categorie di invalidità, civile, di guerra. E questo naturalmente mettendo in primo piano sicuramente proprio i bisogni delle certo. Persone, i bisogni e i disagi delle persone e delle proprie famiglie, perché questa ha una ripercussione certo, su tutta naturalmente ovviamente. Anche su tutta la famiglia, assolutamente. Quindi, da parte nostra e degli operatori veramente grande gentilezza, ascolto e attenzione al nostro numero verde completamente gratuito che è 800 810 810 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e sabato dalle 9 alle 13. Le ho fatto questa domanda perché parlando così, diciamo in astratto come stiamo facendo noi di questa problematica, forse non ci si rende conto di che impatto possano avere invece queste modifiche sui criteri, proprio l'impatto sulla vita di una famiglia, e quindi è anche giusto capire invece proprio come vengono accolte certe modifiche, certe notizie da chi poi è il diretto interessato. Luigi dalla provincia di Brindisi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, sì, io vorrei porre un quesito in merito alla sentenza del 28/11/2012, numero 15648. Ci dica in concreto. Sì, in merito sempre all'invalidità civile, sì. Dove dice questa sentenza che l'assegno di invalidità civile spetta ai non vedenti anche che superano il reddito, che lavorano in pratica. Per fare tutto ciò bisogna fare per forza causa, o spetta e basta. Allora, dottoressa Caracciolo, la giro a lei questa domanda. Che cosa deve fare un non vedente che supera il tetto del reddito per avere questa invalidità, questa pensione di invalidità? Guardi, in realtà si tratta solo di un'unica sentenza. Sì, sì, immaginavo. Ecco. E poi cosa bisogna fare? Sicuramente le situazioni vanno valutate singolarmente. Certo, caso noi per siamo, caso. Ecco, quindi vanno valutate una serie di circostanze e se il soggetto si trova nella condizione di dover contestare, noi siamo assolutamente a disposizione, però una sentenza non fa, non dà indicazioni normative, quindi non è che sulla base di una sola sentenza sì. Poi si assumono di conseguenza si fanno degli interventi o delle azioni sì. Nei confronti dei soggetti. In ogni caso, il patronato è a disposizione in maniera gratuita, quindi valutando le situazioni e se i soggetti si dovessero trovare in una situazione da dover contestare di questo tipo, bisogna valutare e poi agire sicuramente, però ecco, una sentenza non determina un cambiamento nelle posizioni oppure nelle disposizioni di un ente previdenziale o di certo. Chiunque altro. Piero dalla provincia di Venezia, buongiorno, benvenuto anche a lei, ci dica. Allora, niente, è semplicissimo, mia figlia disabile, 25 anni, percepisce la pensione di cui ha l'oggetto. Sì. Nel caso la circolare riprendesse valore, fa cumulo il reddito della famiglia, dei genitori? Allora, anche in questo caso chiedo l'aiuto della dottoressa Caracciolo. No, in questo caso no, non avrebbe nessuna rilevanza il reddito familiare. È soltanto il reddito del coniuge, quindi in una situazione in cui c'è un coniuge certo. Viene considerato quel reddito cumulato, diversamente no, si fa sempre riferimento, si prende in considerazione il reddito del singolo. Pierluigi dalla provincia di Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Mia mamma 10 anni fa, quando è morto mio padre, gli hanno fatto una riscrittura di pensione di mio padre a mia madre, però mia madre aveva una sociale per intervenzioni di validità a livello psicologico, cioè roba di psicologia, insomma. E vuol sapere, cioè in quel momento la sua gliel'hanno tolta e gli hanno dato questa reversibilità di mio padre, gli anni di lavoro che ha fatto. E devo sapere se era una cosa che si doveva fare o mia madre doveva tenersi anche la sua, perché non è che da un giorno all'altro sia guarita, cioè ancora non ha più problemi. L'invalidità. Allora, dottoressa Caracciolo, in questo caso parliamo di una persona che aveva evidentemente una pensione di invalidità parziale, che quando il marito è morto ha ottenuto anche ovviamente la reversibilità e però ha perso la sua. Che è giusto questo procedimento? Sì, ma quello rientra nelle cose generali, sì, cioè sì, l'invalidità certo. Appunto la prestazione economica è legata a una situazione reddituale di un certo tipo, ma questo sempre stato così, è così, no? Quindi, certo. Essendo lei titolare di una prestazione pensionistica a cui non può rinunciare, quindi evidentemente il suo reddito derivante dalla prestazione di reversibilità le ha fatto venire meno il diritto alla prestazione economica, fermo restando il suo certo. stato di invalidità e quindi è vero come la dice, sua condizione certo, è vero come certo. dice il signore che l'invalidità non è che poi da un giorno all'altro, seppure sia parziale, scompaia, però è anche vero che vanno considerate poi le condizioni generali di una famiglia o comunque di un nucleo familiare, giusto? Viene meno il cioè il riconoscimento del certo. status di invalido. Però il diritto alla sono due diciamo due componenti essenziali, no, per avere il diritto: innanzitutto il riconoscimento sanitario e poi una situazione reddituale purtroppo di un certo tipo, certo. E quindi venendo meno quella si perde il diritto alla prestazione economica. Viviana dalla provincia di Roma, buongiorno, benvenuta anche a lei, ci dica. Buongiorno dottoressa De Rosa e buongiorno ai suoi ospiti e soprattutto grazie per questa iniziativa. La ringraziamo. Proprio. Ci dica tutto. Sì, allora, io sarò velocissima. Ho 50 anni e sono affetta da 4 da sclerosi multipla a placche, quindi non si guarisce. E, percepisco da 3 anni e mezzo ormai una... mi scusi, sono un po' agitata. Anche perché non si preoccupi, non si preoccupi. Qui deve no, sentirsi a casa sua. Sì, sì, no, ma avevo già mandato una mail alla dottoressa Rosciani che certo, immagino. Mi chiese di mandarlo. E io percepisco questo assegno di invalidità di 277 euro da 3 sì. anni. E poi è arrivata la circolare, tutto questo proprio, questo tran tran e via sì. dicendo. Ma la mia sclerosi multipla è piuttosto forte, voglio dire che non si guarisce, oltretutto sì. Non ci danno quasi più neanche l'interferone per poterci rallentare la malattia. E quello che volevo chiedere è, io ho un reddito di 3.300 euro l'anno, credo, qualcosa del genere, mi aiutano le mie sorelle, perché purtroppo poi tutto va a scatafascio, no? Certo. Cioè, quando ti ammali, uomini, lavoro e via dicendo, non certo. sei più nessuno. Sì. Ora, io credo, e questo mi prendo la responsabilità di quello che dico, volevo sapere innanzitutto che fine farà, cioè se questa pensione, perché l'INPS mi ha assicurato che, e anche il mio patronato mi ha assicurato che non verrà tolta, sì. almeno un minimo. Io non posso lavorare, non posso fare certo, niente. Certo. E mi prendo la responsabilità e vi lascio di quello che dico. Io credo che questa riforma, queste direttive siano una eutanasia di Stato, come è successo ai malati di SLA. E quindi se ne fa tanto di parlare di principi cattolici eccetera, ma se ci tolgono quel poco che noi con cui possiamo vivere, io credo che molte persone che si sono suicidate lo hanno fatto anche per disperazione e non c'è nulla assolutamente da imputare a loro. Allora, signora Viviana, intanto grazie per la sua testimonianza. Qui non si tratta neanche di principi cattolici, è proprio una questione di salvaguardare la dignità delle persone. Le 12:47 minuti, allora volevo chiedere al collega Stefano Caredda una considerazione su come viene trattato il sociale, su come è stato trattato il sociale in questi mesi di profonda crisi per il paese. Secondo te, Stefano, qual è stato l'approccio e cosa, tra virgolette, si è portato a casa e cosa no, in termini di risultati? Sono i risultati, infatti, quelli che sono mancati. La testimonianza della signora che abbiamo sì. sentito adesso al telefono è evidentemente chiarisce la percezione che i cittadini hanno rispetto a ciò che viene fatto e non viene fatto in ambito sociale. In modo particolare, evito adesso, il tempo è poco, di andare sui fondi statali a carattere sociale, il fondo delle politiche sociali che sono stati tagliati del 90% negli ultimi 2 anni. Mi concentro sulla questione proprio dell'invalidità. Sì. Noi viviamo in una situazione in cui da almeno 2 anni, 3 anni a questa parte, si immaginano le persone con invalidità come persone che in qualche modo prendono risorse statali. Certo. E spesso non meritate, pensate a tutta l'enfasi sui falsi invalidi, sulle false invalidità. Questo è un problema perché poi a andarci di mezzo sono quelli veri di invalidi, non i falsi invalidi. Certo. Noi prima abbiamo accennato al fatto che i governi ogni tanto provano a tassare la disabilità. Sì. Ci ha provato questa legge di stabilità appena andata, le prime bozze tassavano le pensioni di invalidità e le pensioni di guerra. Straordinariamente evidente di tutta questa questione fu la legge di stabilità del 2010, quella in cui si propose un aumento della soglia di invalidità per ricevere la pensione, oggi si riceve fino al 74%, lì si pensava di alzarla fino all'85%. Sì. In quel caso, partì proprio in quel caso, era il luglio del 2010, questa campagna sui falsi invalidi, e nella legge di stabilità di quest'anno si sono inseriti ben 450.000 controlli straordinari dell'INPS tra il 2013 e il 2015, che si vanno ad aggiungere agli 800.000 già effettuati nel 2009, dal 2009 al 2012. Ora, il Stefano, con questo non è che vogliamo dire che i controlli non debbano essere fatti, assolutamente, però cerchiamo anche, come dire, di tenere a mente l'obiettivo, che è quello di tutelare tutte queste persone che hanno davvero, davvero bisogno, e ne hanno ancor più bisogno in un momento di crisi come quello attuale che stiamo vivendo. Amedeo dalla provincia di Latina, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a tutti e auguri di buona salute a tutti. Grazie, ci dica. Ecco, io chiamavo perché sono stato riconosciuto di invalido al 100% e adesso volevo sapere se era, siccome ho una rendita INAIL del 40% con un e più la pensione anticipata. Perché che cosa succederà? Dice, vuole sapere lei, giustamente. Pensionerà e rientra nei 600, quale rientra nei 600, 16.127 euro. Allora, vediamo un po' se la dottoressa Caracciolo ci può aiutare. Scusi, io non ho capito, la rendita INAIL e cos'altro? E poi ha la pensione anticipata. Allora, la pensione anticipata, presumo di vecchiaia. Sì, non so, sì, immagino di sì. Forse è una pensione di vecchiaia, sì, rientra nella definizione del reddito. Mentre la rendita INAIL no, non è considerata. Ho capito, quindi deve tener conto solo di quel parametro. Perché è una prestazione di natura risarcitoria, la rendita INAIL è quindi esclusa dai computo considerati. Sì, sì. Patrick da Como, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Ci dica. Senta, io volevo spiegare un attimo il caso di mia moglie, che ha 44 anni. Lei praticamente fino all'anno scorso, dall'ultima revisione, col 75% di invalidità e invalida civile, ha sempre percepito la pensioncina di 270 euro mensili in più tutte le esenzioni, perché mia moglie è proprio completamente conciata con la schiena, ginocchia, ha avuto interventi. Magicamente adesso, dall'ultimo controllo, secondo l'INPS, gli hanno tolto completamente l'assegno di accompagnamento e oltretutto anche tutte le esenzioni. Io dico, in un periodo così di crisi, e io faccio l'operaio, ho famiglia, lavoro da solo, arrivavamo anche a fine mese grazie al suo assegno comunque di invalidità. Sì, Patrick, mi scusi, io voglio sapere se è stata rivista la soglia di invalidità di sua moglie. Sì, sì, è stata rivista, è stata proprio completamente abbassata. Abbassata. Ecco. Secondo loro, dopo anni che comunque risultava 75, magicamente, secondo loro, dall'ultima revisione, sì, gli è stato tolto tutto completamente, anche esenzioni comprese. Allora, dottoressa Caracciolo, in questo caso il signor Patrick e la moglie si possono in qualche modo muovere e cercare di modificare la situazione? Sicuramente sì, verificando l'esistenza di condizioni sanitarie che non sono state valutate correttamente. No, perché magari passare da un 75% a niente è un po' forte come cambiamento. È attività quotidiana, perché purtroppo, appunto, come diceva il giornalista, cioè negli ultimi tempi, e non è teoria, ma è frutto dell'esperienza quotidiana, una tendenza molto spiccata a verificare più di quello che deve essere verificato, nonostante sia, come lei giustamente diceva, correttissimo e dovuto il controllo, la verifica, certo, e tutto quello che ne consegue. Però effettivamente noi quotidianamente assistiamo a una continua pressione, verifiche effettuate quando non sono necessarie, momenti in cui non erano dovute, e quindi nel caso del signore io non posso così dire ovviamente che, che la posizione dell'INPS, il provvedimento dell'INPS sia sbagliato, però gli consiglierei magari di recarsi presso un patronato, certo, e di verificare, perché ci sono medici legali assolutamente competenti, di verificare l'esistenza la situazione dei presupposti sanitari, assolutamente, casomai un ricorso giudiziario, certo, è un diritto assolutamente da legittimo. Giampaolo da Milano, buongiorno, benvenuto, le chiedo di essere molto molto rapido. Sì, buongiorno, volevo fare un cenno storico e una constatazione. Velocissimo. Allora, la richiesta è sapere, la domanda è sapere che fine hanno fatto i soldi che sono stati riusciti e sono stati recuperati dagli invalidi che non erano invalidi, sostanzialmente. La seconda, invece, il cenno storico è questo. Io ho la moglie con la sclerosi multipla, ma avevo mio zio negli anni 60 in Emilia che aveva il morbo di Parkinson. Perché dico questo? Perché l'Italia è sempre stata divisa in due in un certo modo, perché in Emilia negli anni 70, quando si legavano i cani con la salsiccia, nel senso che c'era benessere per tutti, veniva chiamato mio nonno a portare suo figlio ogni anno per vedere se il morbo di Parkinson, come per miracolo, fosse comparso. Certo. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che i controlli da alcune parti geografiche li ha sempre fatti, e fatti con molto senso del dovere. Allora, signor Giampaolo, noi prendiamo le sue osservazioni, purtroppo non c'è tempo per dare delle risposte che avrebbero bisogno di molto tempo. Io ringrazio Stefano Caredda, di redattore sociale, Angela Maria Caracciolo, responsabile settore previdenza patronato INAS CISL Nazionale. Ringrazio anche Dolores Forlano, coordinatrice del call center di superabile.it, che ricordo il numero 800 810 810. Il tempo a nostra disposizione è terminato, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.